Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo appuntamento di questa settimana insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Ben ritrovato Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Mirko, un saluto agli ascoltatori. Torniamo a parlare di bollette, lo facciamo spesso, in questo caso quella dei rifiuti, il servizio raccolta, asporto e smaltimento che è gestito con diverse società, consortili prevalente capitale pubblico, quindi pensiamo a Veritas piuttosto che a Contarina, piuttosto che a ERAPS per il Padovano o altre ancora che i nostri ascoltatori ben conoscono. Ecco, da oggi l'Adico, Gianluca, torna a riproporre un servizio per fare un calcolo, cioè per farsi restituire dei soldi. Di quali soldi stiamo parlando? Mirko, come ricordavi te, questa comunque non è una battaglia nuova, in realtà c'è una sentenza dello scorso anno della Corte di Cassazione che ha messo definitivamente la parola fine a questa problematica. In realtà però per quanto riguarda almeno Veritas, che è l'azienda che fornisce la provincia di Venezia e comuni limitrofi, il problema nasce dal 2002. Perché Veritas dal 2002 al 2010, ma anche altre aziende del Veneto, ha applicato l'IVA, illegittimamente l'IVA, sulla tariffa di igiene ambientale, sulla TIA, che ormai non esiste più a Venezia. Ma questo tipo di appunto di applicazione, applicare l'IVA, quindi un'imposta su un'altra tariffa, era da tempo giudicato illegittimo, insomma, anche da vari giudici. Diciamo che dallo scorso anno, dal 2016, la Corte di Cassazione ha detto è proprio illegittima, dovete chiaramente restituire i soldi agli utenti. Ciò significa che in questo caso Veritas, comunque tutte le aziende che abbiano applicato l'IVA su una tariffa, in questo caso di igiene ambientale, devono restituire il mal tolto agli utenti, quindi devono restituire delle somme agli utenti ai quali è stata ingiustamente applicata l'IVA. Ricordiamo che in realtà poi la restituzione deve essere effettuata dal Ministero delle Finanze, perché in realtà è il Ministero che poi ha incamerato l'IVA e quindi dovrà restituirla, in questo caso a Veritas, che dovrà darla poi ai cittadini. Purtroppo, Mirko, abbiamo constatato che allo stato attuale, quindi dopo una sentenza dello scorso anno, ma dopo anche innumerevoli ricorsi degli anni precedenti ai quali Veritas si è sempre opposta, attualmente nessun utente ha visto praticamente un euro di quelli dovuti per questa applicazione illegittima dell'IVA. Allora, come Adico, ne abbiamo già parlato durante il vostro programma, siamo in prima fila, l'hanno fatto anche altre associazioni, ma diciamo che adesso noi siamo in prima fila perché venga poi applicata questa sentenza, che allo stato attuale non vede appunto risultati, nel senso che gli utenti non hanno per ora visto un soldo. E per cui noi già da inizio estate abbiamo deciso, proprio per smuovere un po' le acque, di fornire un servizio che riteniamo molto utile, molto apprezzato, ovvero abbiamo invitato un esperto nella nostra associazione, che in questo caso ogni venerdì riceverà e accoglierà i soci della nostra associazione, chi vuole diventare socio, gratuitamente, e gli effettuerà i calcoli per capire quanto ogni persona, ogni utente avanzi appunto da Veritas. Non solo, il servizio comprende anche l'invio della richiesta del rimborso, quindi sostanzialmente il blocco della prescrizione, perché come sai il grande problema di questi crediti appunto che a un certo punto possono essere prescritti, quindi non c'è la possibilità per l'utente di vedere più un euro. Ecco Gianluca, tu hai fatto riferimento a Veritas, quindi parliamo dell'area veneziana, compreso anche ad esempio il comune di Mogliano Veneto, che è in provincia di Venezia, perché qui c'erano dei casi effettivamente per un arco di anni che si erano verificati di applicazione di un'imposta su una tassa. Potrebbe essere che sia successo anche altrove. Può essere assolutamente che è successo altrove con altre aziende. Noi chiaramente abbiamo individuato Veritas perché è stata realmente l'azienda più presa di mira per questo comportamento in varie occasioni, per cui noi anche operando nell'area veneziana abbiamo potuto insomma agire per ora nei confronti di Veritas. fermo restando che noi siamo disponibilissimi, il nostro esperto è disponibilissimo poi a calcolare gli eventuali rimborsi per tutte le zone della nostra regione nelle quali appunto le rispettive aziende abbiano applicato illegittimamente l'IVA su una tariffa, su una tassa, in questo caso ambientale, ma anche di qualsiasi altra natura. Ricordiamo che poi noi con questo servizio molto sentito, diciamo, nella zona del veneziano, questa questione noi in effetti abbiamo già potuto fare i calcoli per un centinaio di persone in pochi giorni, in 6-7 appuntamenti. Abbiamo fatto il calcolo per un centinaio di persone e devo dire che, a dispetto di ciò che si pensa, ovvero si pensa che alla fine i soldi del rimborso siano veramente pochi, abbiamo visto che in realtà ci sono anche persone che avanzano diverse centinaia di euro. Abbiamo un record di una signora con una casa abbastanza grande che avanzerebbe da Veritas 420 euro. Tra l'altro, Mirko, considerando che questa persona non ha chiesto la prescrizione a suo tempo, per cui alla fine i calcoli li abbiamo fatti solo sui 3 anni non prescritti, quindi stiamo parlando di cifre abbastanza importanti. Ecco, magari non è successo effettivamente altrove con altre aziende, però per sicurezza cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori? Dove devono andare a controllare? Beh, nella bolletta si può vedere chiaramente se vi sia questa applicazione dell'IVA. Io credo che altre aziende l'abbiano fatto, in ogni caso la sentenza del 2016 ha messo definitivamente la parola fine, come ho detto all'inizio, quindi in teoria, almeno dallo scorso anno, nessuno dovrebbe applicare più l'IVA su una tariffa o su una tassa. Diciamo che Veritas, per prendere l'esempio che stiamo portando dall'inizio, ha già smesso di applicarla dal 2010, quindi l'ha applicata tra il 2002 e il 2010. Ha già smesso di applicarla proprio perché era stata investita da ricorsi e da giudizi a lei sfavorevoli, però solo la Corte di Cassazione lo scorso anno ha potuto dare la parola definitiva a questa vicenda, per cui diciamo la Corte di Cassazione ha sicuramente dato molta forza all'illegittima applicazione dell'IVA. E per chi appunto è servito da altre aziende, il consiglio è quello di controllare la bolletta e in ogni caso credo che proprio nelle rispettive zone in cui si abita, comunque se un'azienda ha applicato l'IVA ingiustamente, comunque dovrebbe essere emerso almeno tramite anche articoli di giornale o altre possibilità. In ogni caso, se dovesse succedere che qualcuno possa confermare questa situazione anche al di là della nostra provincia, può sicuramente rivolgersi a noi, il servizio vale per tutti. Certo, e allora Associazione Difesa Consumatori.it, da oggi torna ufficialmente questo servizio, la illegale applicazione dell'IVA sulla TIA, tariffa di igiene ambientale. Grazie Gianluca, alla prossima settimana. Grazie a te Mirko. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.